quanto più a una sensazione, no? Che queste foto in qualche modo cercano di esprimere. Infatti mi era piaciuto quando mi hai descritto queste due fotografie, questa dietro di me, sì, e quella che ha come questo fiore un po' in movimento, che mi sembra che siano tutte e due viaggio in Islanda. Sì, sì. E in cui mi dicevi che in qualche modo rappresentano da una parte questa idea di voler cogliere il tempo che si ferma e quindi forse un mondo che è anche distante dalla dinamicità che viviamo a Milano, insomma nelle grandi città, e al contempo che ci sia però una vita, che ci sia un movimento, che però è un tempo diverso, è un tempo lento, è un tempo malinconico, delicato, e niente, quindi se vuoi spiegare meglio tu cosa ti ha... cioè forse qual è stato un po' proprio in questo senso anche di volerti staccare da una fotografia più meccanica, se così possiamo dire, qual è stato un po' il sentimento che ti ha spinto e che sta un po' alla base di questo progetto che abbiamo esposto questa sera. Ma il sentimento, come dicevamo poco fa, che ha spinto la maggior parte di queste foto è proprio il fatto di ricercare un senso di calma e di tranquillità in un mondo, se vogliamo, in una società nella quale la calma non è proprio vista come la cosa migliore del mondo, per forza, o comunque non è valutata in senso positivo, ma quasi in senso di manca qualcosa, bisogna fare, bisogna muoversi, bisogna per forza essere in un altro posto rispetto a quello in cui si è. E il mio atto di andare a cercare queste foto è stato semplicemente un atto di andare a cercare un attimo di tranquillità, sia per me che per immortalare il fatto che la tranquillità e la bellezza stanno soprattutto negli atti di vita quotidiana, che tutti noi possiamo, se ci fermiamo un attimo, possiamo vedere e sicuramente sì, osservare. Cioè sicuramente per me poi come curatrice la cosa che mi ha colpito di più è che ho sempre un po' questo sentimento di voler evadere, di voler cercare degli spazi altri rispetto alla mia quotidianità, e quindi quello che io ho pensato quando mi hai fatto vedere queste foto è stato proprio imparare a guardare e a cogliere la bellezza di questi momenti, di questo, cioè imparare a prendersi questo tempo, questa pausa, questo spazio di riflessione un po' su quello che ci sta intorno, perché poi sono anche delle foto molto intime, cioè a parte alcuni soggetti a cui sei molto legato, forse che ci insegnano anche quanto sia importante anche apprezzare queste, diciamo, parti più solide della nostra vita, che sono la nostra famiglia, i nostri amici, insomma dei punti stabili della nostra vita, che senza i quali probabilmente non sopravviveremmo in questo mondo. Quindi assolutamente è stato molto interessante, spero che sia un progetto che avrà un appeal anche su di voi. Non so se c'è qualche domanda, visto che c'è l'artista qui, che può venire dal pubblico, qualche curiosità sul processo creativo, sulla mostra. Esatto. O qualche commento. No. Vieni Giulia, vieni qui che devi parlare dentro il microfono. Te la sei cercata. Volevo chiedere all'artista qual è la sua foto preferita del progetto. Questa è un po' come chiedere a un padre o una mamma i figli preferiti. Credo la mia foto preferita del progetto sia l'ultima, ma semplicemente perché... giusto, in effetti. Dov'è? Dove l'hai messa, Laura? Dimmi qual è. Quella che si chiama I fiori del bagno, che dovrebbe essere lì. Ah, guarda, è lì. Esatto, ok. E quella sotto è stata l'ultima foto scattata per questo progetto. È stato nel bagno di casa qui a Milano, e non so per quale motivo dopo quello scatto ho capito che dovevo prendere tutte queste foto e farci qualcosa. Quindi è la mia preferita perché mi ha comunicato in un modo che non so ancora spiegare il fatto che ok, adesso riguarda e poi dopo riparti quando vuoi. Ma e c'è anche qualche storia particolare che vuoi raccontarci di qualche foto, di una foto, qualche backstage? Allora sì. Qualcuno lo so. La foto. Qualcuno me l'hai raccontato. La foto dei girasoli che c'è all'entrata è la foto forse in un certo senso meno istintiva di tutto il progetto, ma perché nel mio primo progetto fotografico, appunto 4.989 chilometri, c'era una foto dei girasoli che mi piaceva molto, ma che ha sempre avuto dei dettagli che non mi facevano impazzire fino in fondo. E quindi l'anno scorso in Francia, sempre in Francia, ho cercato di ricrearla, ma finalmente sono arrivato appunto alla ricetta. Una volta che ho trovato dei girasoli, innanzitutto, che comunque non è molto facile. Ma una volta che ho fatto quello scatto, ho capito che adesso ce l'avevo. Quindi anche il fatto di essere ritornato su una foto mi ha insomma. Ma quindi sono foto che tu hai studiato in qualche modo in anticipo o che sono state istintive, nel senso che nel momento in cui hai visto il soggetto hai deciso di fotografarlo durante il viaggio? Cioè, intendo dire, se c'è stato anche proprio un processo di progettazione creativa o più proprio spontaneo? Allora, progettazione creativa sicuramente no. Ho coniato questo Giulia termine. Giulia lo sa molto bene che progettazione creativa c'è zero. Addirittura l'ultimo road trip, quello dell'anno scorso in Francia, era partito come un road trip cercato su un non so come spiegarlo, però su internet, se uno cerca delle coordinate a caso, cerca dei posti random, ci sono dei generatori di location che in effetti esistono nel mondo, e ho fatto fare praticamente, ho schiacciato 5 volte genera e sono venuti dei posti che erano tipo Svizzera, Germania, altri posti sempre più su. E a metà di quel viaggio, quindi totalmente a caso, zero preparazione, a metà di quel viaggio si è capito che c'era zero preparazione, e poi ho avuto l'istinto di, non so per quale motivo, andare alla casa di Monet, in Francia, a Giverny, a metà viaggio, quindi ho dovuto completamente cambiare strada, perdendo un sacco di tempo. E quindi questa era la storia, non so perché, però per far capire che c'è zero progettazione, che è tutto molto improvvisato, molto, molto improvvisato, molto istintivo, tranne appunto quello scatto dei girasoli che ci sono legato anche per questo fatto qua, perché è l'unico a essere questo tipo di fotografia, insomma. Allora, forse la mia ultima domanda è: qual è stata la foto più difficile che ti ha dato più problemi da scattare, o anche semplicemente che ti ha convinto di meno, insomma, ci hai messo di più ad accogliere? La foto, hai detto, che ti ha convinto di meno? La foto che per un millimetro è qua dentro, perché non so perché, ma ho deciso di tenere comunque, di cui non ero completamente convinto fino all'ultimo, è la foto dei Liguria 2023, che tra parentesi è la tua preferita. È la mia preferita. E non so perché, durante gli anni non ero grande fan di quella foto, ma stupenda. Quando l'ho vista... Io l'ho acquistata. Ok. Quando l'ho vista poi, dopo l'anno scorso, quando ho messo tutte le foto, all'improvviso ha avuto senso all'interno di tutto questo. A me piace tantissimo, perché mi sembra, forse è un po' mio difetto di mestiere, ma mi piace molto la fotografia realista del Novecento, quindi insomma Basilico, Gardin, eccetera, e quindi a me ricordava molto, cioè forse ti direi che è quella che mi sembra che abbia uno stampo più... fotografico del mestiere. Sì, sì, ecco, e forse esattamente perché per non... questo che non ti piaceva. Sì. Sì. Va bene, basta, abbiamo... Grazie. Vi lasciamo liberi. E se volete rimanere, credo tra un'oretta dovrebbe partire un DJ set, e altrimenti... Che farà Laura personalmente. No, grazie al cielo per voi, no. Però insomma potete rimanere qui, insomma bere, intrattenervi, altrimenti speriamo di rivedervi il 27 quando invece verranno ospiti particolari. Vogliamo fare spoiler? Non facciamo spoiler. No. Non ancora. Meglio va di bene. No. Ospiti particolari, meglio speciali no, a parlare gente con Nick. Giusto, giusto. Va bene, grazie mille. Buona serata. Buona serata. Bye.